Va bene, dai, io adesso sì, proverei sul serio a iniziare. Mi chiamo un attimo all'attenzione, non dico all'ordine, ma almeno all'attenzione. Allora, questo è l'ultimo incontro della 3 giorni di una decorosa depressione, che abbiamo pensato come appunto momento conclusivo che dobbiamo avere in qualche modo la capacità di raccogliere un po' tutto quello che è emerso durante la 3 giorni, perché comunque per quanto diciamo, abbiamo affrontato nodi, problemi e questioni molto, molto diverse, però in stretta connessione, e insomma pensiamo che almeno fino a qui la cosa sia abbastanza ben riuscita. Questo incontro, appunto, l'abbiamo chiamato Oltre i confini dell'accoglienza, e diciamo si pone un po' la sfida di superare anche un certo ordine del discorso che si è andato delineando in questi anni, perché secondo noi in qualche modo il termine accoglienza ha assunto una centralità nel bene e nel male nel discorso pubblico e nelle politiche di governo delle migrazioni, e dicevo nel bene e nel male perché in qualche modo le migrazioni sono un fenomeno che dovrebbe eccedere la questione dell'accoglienza, e però come è stato anche sottolineato questa mattina in alcuni interventi, ad esempio la Rigo appunto faceva riferimento ai numeri dei decreti flussi nei discorsi anni, che sono andati sempre più diminuendo, al fronte invece di un aumento delle richieste d'asilo. E quindi ci troviamo in una situazione attuale secondo la quale l'unico meccanismo attraverso il quale bisogna passare per poter accedere in maniera regolare in Europa è quello della richiesta d'asilo e quindi dell'accoglienza. Attorno a questo sistema, appunto, in questi anni sono successe tante cose, tanti anche fatti di cronaca, centri di accoglienza che hanno subito aggressioni, attacchi, migranti che sono stati anche uccisi in questi anni, e che però in qualcosa è cambiato. Se pensiamo a quello che è uscito sui giornali dopo l'uccisione di Sambe Diop a Firenze nel, se non ricordo male, 2011, che diciamo, è passato un po' come il gesto di un folle, siamo arrivati ai fatti di Macerata, dove una tentata strage è stata in qualche modo giustificata dalle stesse istituzioni. Minniti stesso, in uno dei suoi deliri di onnipotenza a cui ci sta abituando in questi mesi, è stato capace di dichiarare che proprio il suo intervento, quello che ha messo in campo nell'ultimo anno, in qualche modo lui ha provato a evitare quello che è successo a Macerata, ovvero appunto una tentata strage, quasi una guerra civile. E quello che noi riconosciamo e che proviamo a leggere in questo è che in un periodo lungo ormai, diciamo, di crisi di legittimità, di elite di potere, sia politica che economica, queste elite di potere in qualche modo sono disposte a sperimentare una guerra civile in qualche modo controllata pur di legittimare una riaffermazione di queste elite stesse. E sono successe tante altre cose in questi mesi, dalla messa in discussione dell'operato delle ONG sui salvataggi in mare. Credo Di Maio fosse stato lui a parlare dei taxi del Mediterraneo, appunto per chi ha una minima idea di quello che sono viaggi nel Mediterraneo, fare diciamo, una dichiarazione del genere è delirante, ha un tentativo di spingere sempre più in là i confini, appunto arrivando fino in Niger. Tutto questo, come è stato ribadito più volte anche oggi, è chiaramente un modello di governance, di controllo, di selezione, di repressione delle migrazioni. E quello che proviamo a fare in questa assemblea è quello di appunto provare ad aprire uno spazio di discussione. Mettiamo a disposizione questo spazio per un confronto fra una serie di figure delle migrazioni o del sistema dell'accoglienza sono coinvolte a vario titolo e con vari livelli di sfruttamento e di repressione. Si è detto ancora più volte in questi giorni che probabilmente la legge Minniti non è esattamente uno spartiacque, non è esattamente una, diciamo, innovazione, ma piuttosto una sistematizzazione di prassi o di linee di governo che erano già in campo da diverso tempo e che appunto sono state messe a sistema. Però, ad esempio, per quello che riguarda i lavoratori e le lavoratrici dell'accoglienza, probabilmente il decreto Minniti è stato un momento spartiacque perché ha visto appunto nascere in diverse città delle assemblee e quindi probabilmente la Minniti Orlando esacerbando il ruolo o mettendo a nudo il ruolo di chi lavora in accoglienza ha in qualche modo c'è stata una sorta di presa di coscienza o comunque si è sentita la necessità di rimettere in discussione il proprio lavoro. Dall'altro lato c'è chi da fuori ha sempre criticato, lottato contro il sistema d'accoglienza e quindi quei movimenti solidali che hanno attraversato i vari contesti di lotta e di resistenza al confine. Penso soprattutto a Ventimiglia, anche perché è un'esperienza che ho conosciuto da vicino. Pensavo prima, se non mi sbaglio, Savino sottolineava il fatto che probabilmente questo modello che si sta dispiegando non è esattamente un modello repressivo, ma appunto di governo e di controllo. Quando però, questo sì, probabilmente è vero, però quando nascono focolai di resistenza o quando migranti bracciantato, insomma, si prova ad alzare la testa e a organizzarsi, queste situazioni sì, vengono represse, represse duramente proprio perché mettono in discussione radicalmente il dispositivo umanitario e la gestione più o meno fintamente emergenziale delle migrazioni. Dall'altra, quindi, poi abbiamo anche appunto migranti e richiedenti asilo che in diversi contesti assumono anche pienamente un piano di conflitto e un piano emergenziale rispetto a quello che è il sistema d'accoglienza. E diciamo, prima di aprire sul serio questa assemblea, vorremmo lasciare la parola a dei richiedenti asilo, di un collettivo di richiedenti asilo appunto di Modena, che sono qui oggi e che insomma possono restituire la loro esperienza. Buonasera a tutti, a tutte. Io mi chiamo Camara Mohamed, vengo dal Mali. Sono in Italia da 2 anni e 2 mesi e vi ringrazio anche di aver partecipato a questo evento con voi. Noi abbiamo un collettivo a Modena. Questo collettivo, ci sono i problemi che ci hanno spinto di auto-organizzarsi per fare delle lotte per i nostri diritti. Per alcuni non abbiamo i diritti, ma ce l'abbiamo, perché ci sono i diritti per i migranti, in realtà. Quindi abbiamo cominciato a lottare, abbiamo fatto tante manifestazioni con gli altri gruppi che ci stanno aiutando per fare questa lotta. Abbiamo lottato contro le nostre cooperative, che stanno gestendo le cooperative in un modo male, che non ci vuole. Impedisce una persona ad avere i suoi diritti, è un crimine contro l'umanità. Cioè, ci sono stati tanti crimini contro l'umanità in Italia, soprattutto a Modena. Non abbiamo nessuno per spingere le cooperative a cambiare le cose. Quelle che fanno per loro è buone, per noi no. Non siamo qua per scherzare e non siamo qua per rovinare l'Italia. Che la popolazione locale è stata spaventata dai politici che i migranti sono colpevoli. No, non è vero, io non sono d'accordo. Devono provare a fare i confronti. La nostra vita nell'accoglienza è dipendenza. Non possiamo fare niente come si dice, singolarmente. Per fare le cose singolarmente ci vuole un operatore per accompagnarsi. Di andare in questo luogo. Non è possibile di andare a rinnovare il tuo documento permesso temporaneo. Penso che non è giusto questo. La vita di una persona dipende da un'altra, senza questa persona non può fare niente, non è giusto questo. È il tempo che diciamo la verità, che non possiamo fare niente perché siamo deboli e noi siamo meno amati nella società. Ormai che facciamo parte della società, vogliamo anche avere il nostro padre. E quindi bisogna lavorare con la gente che hanno la consapevolezza dei migranti, che hanno l'esperienza di capire quello che noi abbiamo indietro, perché siamo tutti ragazzi che hanno qualcosa da fare al futuro, dobbiamo costruire il nostro futuro. Forse per motivo alcuni sono venuti in Italia, ma per noi chiedenti asilo di Modena, noi siamo tutti seri e vogliamo andare avanti con la società italiana. E bisogna avere delle persone interessate come voi di accettare a parlare almeno i nostri problemi, di fare discutere per alleviarci, perché noi abbiamo tante difficoltà, non possiamo anche imparare cose, perché i pensieri sono tantissimi, il cervello non funziona bene e alcuni stanno diventando falsi, hanno perso la regione, già perso la regione. E nell'anno 2017 un del nostro collega, il nostro fratello che era con noi nell'accoglienza è andato a Milano per suicidarsi. Penso che voi avete sentito tutto questo. Io dormivo con questo ragazzo, è un maliano. Ha perso tutto in Mali, quando è venuto qua per risolvere il suo problema, ancora il suo problema è peggiorato, quindi ha deciso di andare via, perché questo mondo non ci sta per lui. E quindi si è suicidato alla stazione di Milano, mi dispiace. E tutti gli altri che sono stati uccisi in Libia, che sono stati nel mare, sono delle persone che avevano la voglia di vivere un'altra vita, di rinnovare la loro vita. E quindi non hanno potuto. E noi che siamo riusciti di venire in Italia, di raggiungerti, e siamo considerati come... Non possiamo dire non siamo considerati. I politici ci prendono come i colpevoli della sofferenza degli italiani, forse sì ce l'avete. E alcune popolazioni che non hanno capito la migrazione, per loro non abbiamo il diritto. Non possiamo vivere con voi perché siamo diversi, no. Non ci vuole la diversità. Il mio sangue può servire a guarire un bianco, che ce l'abbiamo dato i nostri sangue neanche a un'organizzazione che prende il sangue per conservarlo. Un momento arriva qualcuno ha bisogno di sangue, può prendere questo. E hanno chiesto i nostri sangue. Vuole dire che noi possiamo anche fare qualcosa di meglio. Non siamo nulla nella società. Vogliamo che le cose cambiano, che viviamo tutti insieme in Italia per migliorare. Alcuni sono venuti per non stare in Italia, sono già andati via. Noi abbiamo fatto 2 anni e 2 mesi nella sofferenza, niente si è cambiato. Per fare la carta d'identità a Modena ci vuole una manifestazione, ci vuole bloccare la strada per avere la carta d'identità, non è giusto. È forse uno dei nostri diritti. E ce l'abbiamo lottato e finché avere un avvocato per spingere le cooperative a accettare di avere la carta d'identità non è giusto. Gli operatori stanno facendo i loro lavori, ma per noi manca ancora. Loro stanno facendo i soldi, noi non abbiamo niente di simile documento. La carta d'identità che ce l'abbiamo avuto non serve a fare niente, non si può lavorare, non può rinnovare il codice fiscale. Io sono asmatico. Ho voluto fare la visita per l'asma, non ho potuto perché non c'è la tessera sanitaria. Come mai? La mia vita dipende da una tessera sanitaria che si può rinnovare con un permesso temporaneo che la questura mi ha rifiutato di rinnovarlo. Senza l'accompagnamento di un operatore non può fare niente. Non posso cambiare la tessera sanitaria per poter fare una visita per la mia malattia. E quindi sono stato isolato senza fare niente, forse la malattia sta aggravando, non so, allora quindi forse un piccolino presidio per ringraziarvi di aver accettato a me di partecipare a questo evento. Ringrazio neanche il nostro amico Simone, che è molto bravo e gentile, ci ha aiutato a lottare a Modena, a fare tante cose insieme, quindi vi ringrazio tutto. chiaramente questo è il momento più difficile della Tre Giorni in generale, però sì, io proverei veramente a sciogliere le lingue rispetto a tutti gli stimoli che sono arrivati fino a qui, e insomma provare, diciamo, è un po' una responsabilità collettiva la riuscita di questo momento, quindi anche solo riprendere le fila dell'incontro che abbiamo avuto poco fa, ripartendo, diciamo, da alcune questioni emerse. Rispetto, parto da dalle sue parole, che potrebbero, e poi quello che hanno fatto, chiarire tutti i concetti di cui parlavamo prima rispetto a un eventuale rigetto, no? che ne vedremo tanti, delle protezioni internazionali richieste secondo il nuovo sistema Minniti. Quando dico di eventualmente reiterare nuove richieste anche davanti ai rigetti, o quando dico di andare direttamente in questura per richiedere il diritto alla protezione umanitaria, il riconoscimento della protezione umanitaria, parlo di quello che Mohammed ha bene espresso. Cioè, siamo qui, non abbiamo il diritto al soggiorno in Italia, perché la carta d'identità da sola chiaramente non significa il permesso di soggiorno, e però siamo stati qua 2 anni, lui parla l'italiano benissimo, magari appunto come lui, appunto tanti altri hanno fatto esperienze di integrazione o comunque sono partiti dai loro paesi troppo tempo fa, allora c'è un diritto alla loro vita privata che è protetto dalle norme internazionali riconosciute come l'articolo 8 della CEDU, e che a un certo punto dovrà venire riconosciuto, perché cioè, non vogliono né possono fare rientro nei paesi d'origine, e rispetto anche al progetto di migrazione, cioè che non è riconosciuto come un progetto di vita, e invece dovrebbe esserlo, perché la vita privata e familiare che protegge l'articolo 2 della CEDU, e che noi dovremmo garantire, perché la protezione umanitaria è volta anche a garantire i diritti che derivano da obblighi nazionali e internazionali riconosciuti, quindi anche le carte internazionali, se non ce lo dice il legislatore nazionale in questo caso. È la vita che Mohammed vuole qui, perché la sua vita, il progetto di migrazione, perché non è vero che non c'è un diritto a migrare, non è vero che non esiste un diritto a migrare, e c'è un diritto alla realizzazione personale che passa dal riconoscimento di un progetto migratorio. Non so se mi sono spiegata, però partirei anche da quello. Sì, io volevo fare una domanda, in realtà, riagganciandomi con quello che diceva Paolo alla fine, che non c'è stata effettivamente una risposta alla sua domanda, ed era una domanda in particolare per l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell'accoglienza, anche a partire dall'esperienza di Modena, ovvero qual è la vostra posizione quando ci sono dei conflitti, ci sono delle resistenze, ci sono delle lotte anche dure all'interno dei centri, cioè qual è la posizione che voi prendete rispetto a tutte le forme di resistenza che vengono messe in atto dai richiedenti asilo, e insomma, che fanno? La nostra posizione non esiste, perché, come dicevo prima, è assolutamente necessario chiarirla. Le cose sono decisamente diverse da Modena, da Bologna, da Roma e da Taranto. Quindi la mia posizione si deve relazionare rispetto alla posizione della richiesta e della rivendicazione che si metta in atto. Questo perché davvero altrimenti non riusciamo a articolare nessun tipo di ordine del discorso diverso. Come avevamo cercato di mettere in campo nel secondo tavolo, con grosso sforzo, la nostra posizione è quello che a noi ci viene richiesto di fare, di operare rispetto a un modello di comportamento, un modello di addomesticamento, un modello di selezione, perché una persona, rispetto a quello che è un nostro mandato, ma parlo qui di Bologna, parlo qui di un progetto di cui io faccio parte, che non è quello di lui o dell'altro, quindi davvero ci sono delle differenze decisive in questo, mi sento di dire, anche se tutto viene chiamato accoglienza. E interrogarci su quello che è il nostro mandato generale, su come viene incorporato da noi, su come agisce su di noi, su come ci modella noi stessi e quindi di rimando su come noi operiamo il modellamento sul beneficiario cosiddetto. Quindi rispetto alla tua domanda molto precisa, Simone, come noi rispondiamo a delle rivendicazioni forti, io personalmente non ho mai assistito, quindi non posso risponderne né come singolo, no, come gruppo non mi sento di rispondere, mi sento di rispondere che cerchiamo di agire una piena limitatamente a quello che ho mandato, a quello che è un limite, un confine, se vogliamo chiamarlo così, una piena agibilità di rivendicazione. Quello che io interrogo qui e interrogo tutti noi, vi rimando, è come l'operatore dell'accoglienza, l'operatrice dell'accoglienza riesce a vedere le sue proprie contraddizioni, i suoi propri margini di libertà, come allo stesso tempo determinati livelli di sfruttamento, come si diceva prima, e come riesce non al limite a farli categoriali o corporativi, ma ad articolarli ancora una volta sia all'interno del lavoro sia all'esterno con il beneficiario o con altre persone che sono fuori. Ancora una volta rimando a un'elaborazione, a un'analisi specifica e collettiva. Io sono Pietro, appunto, e sono anch'io un operatore dell'accoglienza. E volevo cercare di tentare di fare un passo indietro, spero non per sfuggire alle risposte e alle domande, che sono state tante e sono state precise, e quanto per appunto cercare una risposta o sciogliere dei nodi per cercare delle risposte che probabilmente molto dirette non sono e sono sicuramente difficili da fare. Questo passo indietro prevede quello che è probabilmente un discorso molto difficile, ma che è già un po' stato fatto. Inquadrare l'accoglienza all'interno non solo della filiera che sta sotto l'ombrello della richiesta di asilo e che parte prima dei salvataggi in mare, che sicuramente poi passa per l'accoglienza, per l'asilo, per le commissioni e quant'altro. Relativizzare, quindi, cioè mettere l'accoglienza all'interno da tutto questo, da un punto di vista di strumentalità di essa. E in questo partirei, forse facendo un passo ancora un po' più su, dal diritto di asilo. Questa è forse una posizione personale. Io non penso che siamo qua a parlare da ore, ma probabilmente da anni, di diritto di asilo perché crediamo in qualche modo che il diritto d'asilo sia effettivamente quella cosa che garantisce, che tutela, che può portare a il diritto d'asilo di per sé. È quella cosa che negli ultimi anni si è data, è stata data, è stata creata come canale d'accesso. È stato messo lì a modi in butto per contenere quelli che erano dei flussi, quello che è stata un'impennata dei flussi e che in qualche modo si doveva gestire anche a livello normativo. Siamo qua a parlare, e abbiamo parlato di asilo, perché se questo è il campo, allora cerchiamo di vedere all'interno dell'asilo, i tantissimi livelli, da quello giudiziale a quello dell'accoglienza, a quello che c'è fuori, come può essere strumentalizzato, come può essere attraversato, come può essere e quando rifiutato e in qualche modo modulandolo e cercando di torcerlo all'interno di quello che crediamo sia il punto principale, quindi l'assoluta libertà di muoversi, l'assoluta libertà di autodeterminarsi e quant'altro. Io credo che l'accoglienza possa essere vista da questo punto di vista, anche perché l'accoglienza lo è già un qualcosa attraversato e strumentalizzato da un sacco di punti, da un sacco di poli. E è usato e può essere usato assolutamente, ovviamente, da chi nell'accoglienza è accolto, quindi dalla persona che migra e che lì può trovare, come diceva Savino, in tantissime forme un luogo in cui stare e essere soggetto anche, ovviamente, strumentalità vuol dire utilizzare, ma anche essere soggetto e soggettivato da disciplinamento in modo più o meno alto, forme di detenzione e di privazione della libertà, addomesticamento sicuramente. E questo è il primo utilizzo. È utilizzata, è attraversata, propriamente usata anche da altre entità. Pensiamo per esempio alla tratta, a come l'accoglienza, a come organizzazioni di tratta usano effettivamente l'accoglienza insieme al diritto d'asilo per far sì che le persone a loro soggette possano trovare un luogo di riproduzione con l'asilo e magari con l'aiuto degli operatori dell'accoglienza, degli avvocati, arrivare a una regolarizzazione e quindi evitarsi anche quel problema della legittimità della presenza sul territorio della persona trattata. E l'accoglienza è tentata, è cercata, è utilizzata anche dalla polizia, dalle forze dell'ordine, quando va a chiedere all'accoglienza, tenta di chiedere intensificare la forma di controllo, di dare dati, di collaborare in qualche modo a tutto quello che le forze dell'ordine fanno. In questo senso l'accoglienza, che è un termine, un concetto che secondo me purtroppo in qualche modo ha assolutamente assorbito in questi anni veramente tanto, in modo assolutamente mistificatorio, credo, il discorso sull'immigrazione. È difficilissimo in questi anni pensare a un discorso sull'immigrazione che non riguardasse il termine profugo, che già di per sé è mistificante, e il termine accoglienza. Se non altro perché non coglie assolutamente quella che è l'immigrazione in Italia e le migrazioni che attraversano l'Italia, l'accoglienza di per sé non esaurisce assolutamente quello che è la popolazione immigrata, migrante, ex immigrata che vive qua. Strumentalizzazione quindi dell'accoglienza e possibilità di utilizzo dell'accoglienza e allo stesso tempo presenza dell'accoglienza, non solo nella narrazione ma chiaramente anche fisicamente nei territori e anche a livello di soldi, perché di quello credo che si stia alla fine parlando. E in qualche modo quindi dell'accoglienza io credo non ci si può non avere a che fare. In questo senso intendo che una questione di accoglienza sì, accoglienza no, non, un po' può non concludersi, perché un dire no, un dire sì, cioè, lo è sicuramente a livello di scelta personale, di chi decide di lavorarsi o non lavorarci, e sicuramente di chi decide di esserne accolto o non esserne accolto. Però non si può non avere a che fare con l'accoglienza, anche perché l'accoglienza, come tutti, come non tutti assolutamente, però molti campi di quello che è un dispositivo di governo delle migrazioni, un dispositivo di controllo che abbiamo visto essere assolutamente trasversale e di vivere del lavoro di forze certe volte molto lontane, certe volte molto diverse e collegate assolutamente però dall'essere parte di questa filiera. E noi abbiamo bisogno di cogliere dei nodi all'interno di questa filiera, abbiamo bisogno di cogliere dei campi in cui trovare spazi di agibilità. Uno di questi potrebbe essere l'accoglienza, io credo. È probabilmente forse anche quello più accessibile, potrebbe esserlo, non lo è stato, non lo è adesso. Sicuramente, come si è riconosciuto, c'è una forza lavoro nell'accoglienza molto ampia, creata in maniera quasi così sorprendente, perché stiamo parlando sì di forza lavoro che sicuramente subisce tutte quelle dinamiche di sfruttamento e precarizzazione, ma stiamo parlando anche di una generazione che ha avuto accesso al mondo del lavoro in maniera appunto sorprendente, per la maggior parte, per chi lavora nell'accoglienza è all'interno dei gruppi di amici o al bar d'unico che magari può dire ho un contratto o domani devo svegliarmi alle 9 per lavorare. E abbiamo detto molte delle persone che si riconosce insomma un lavoro che stiamo facendo noi come assemblea di andare a vedere poi chi sono queste persone che lavorano nell'accoglienza, e spesso si riscontra che sono persone che appunto, come si diceva, vengono da un passato di solidali, di sensibilità, di più o meno militanza. Questo crea, credo possa creare un humus, una possibilità di rendere l'accoglienza uno di quei nodi individuabili all'interno di questa filiera per creare spazi di agibilità. Certo, c'è il come farlo, e ho già preso molto tempo, però insomma mi sembra di evitare la domanda. Il chiedere come si pone l'operatore dell'accoglienza di fronte a una protesta delle persone accolte. Sicuramente, come diceva Savino, l'operatore dell'accoglienza si ritrova in una posizione che, per quanto tra l'altro molto spesso scatena conflitti, soprattutto cioè, interni e personali, soprattutto quando è appunto una persona che viene da un certo background e che magari fuori dall'accoglienza continua a militare con forme di con forme solidali. Ecco, sicuramente è una posizione molto difficile. È una posizione che però secondo me può essere molto chiara, e questo sicuramente è un discorso ancora più difficile, può essere molto chiara innanzitutto nel rispondersi che non è all'operatore che si deve dare la responsabilità di dare una risposta a quella protesta, di gestire quella protesta, di mandarla avanti, prima di tutto perché evidentemente non l'ha scatenata lui o lei, evidentemente non è lui che serve per creare una risposta importante a quelle che sono affermazioni di protesta che pensano possano essere tante, dalle questioni della carta di identità alle questioni più meramente relative all'accoglienza e quindi alla dignità della quotidianità. Non credo che appunto sia da andare lì a responsabilizzare, ma non lo credo, devo dire, anche da un punto di vista generale, non è lui che o lei ad avere quel tipo di responsabilità. Certo, come può porsi dall'altro lato, è assolutamente tentare di soffocarle e prenderle come tali e legittimarle assolutamente. Anche, però questo forse è un discorso che ci interessa meno, ci interessa credo molto meno, cioè immaginare un'accoglienza. Sto andando troppo lungo? Ok, vabbè, mi fermo qua, spero di essere stato un minimo chiaro e non solo lungo. Io avevo qualche spunto che volevo lanciare, in realtà a partire un po' dal tavolo di prima e alla riflessione condivisa, un po' il tavolo, un po' gli interventi che avevano seguito. Due cose che riguardano l'interno e due cose che riguardano l'esterno. Per motivi di lavoro, di interesse, di studio e politici, purtroppo insomma, l'accoglienza l'ho vista da un po' da tutti gli angoli, quindi sfrutto in questo momento vari angoli di lettura, li metto insieme per condividerli. Sull'interno, mi ha stupito che nel tavolo di prima, fermo restando che io ero assente stamattina, quindi non so se ne avete parlato, mi sono mancate due parole, una è quella dello Stato e l'altra è quella della Chiesa. Cioè va bene la filiera, va bene lo sfruttamento, però e va benissimo la questione della solidarietà messa a profitto, che sicuramente è un elemento secondo me fondamentale per fare un minimo di analisi terra concreta di che cosa accade all'interno del mondo dell'accoglienza, e cioè come viene messa a profitto la solidarietà, soprattutto per quello che hai appena detto Pietro, cioè sul fatto che i tre quarti di chi ci lavora sono persone con un certo tipo di consapevolezza e coscienza, no? E però quindi come questa questione della solidarietà messa a profitto entri in gioco sia nell'evoluzione del capitalismo e quindi come questa possa essere una nuova forma e un nuovo stadio del capitale a cui stiamo assistendo, e invece in secondo luogo come questa stessa questione della solidarietà messa a profitto non ci possa dire qualcosa di una nuova forma che sta prendendo proprio lo Stato, altra parola che mi è mancata, cioè come uno Stato funziona quando c'è una continuità almeno immaginifica tra le persone delle varie sfere, livelli sociali, delle varie gradazioni verso un ipotetico progetto collettivo che è quello dello Stato, che si ritrova poi nel fatto che uno paga le tasse, nel fatto che poi dopo c'è il welfare che ridistribuisce le risorse, ci sono tutta una serie di passaggi ma fino alle elezioni, i partiti eccetera eccetera eccetera. Come il lavoro in realtà dell'operatore dell'accoglienza rientra all'interno di un nuovo modo di una nuova riconfigurazione che secondo me stiamo vedendo proprio della, dello Stato e della, proprio dello Stato che è, cambia. Sempre, secondo punto, sempre invece sull'interno, è quello della Chiesa, cioè mi è mancata una riflessione su quella che invece secondo me, ma non solo secondo me, ma credo che invece sia proprio una nuova economia morale della carità cristiana che viviamo all'interno sempre del sistema dell'accoglienza, e cioè parliamo di solidarietà messa a profitto, questo lo diciamo da compagni, cioè da persone che danno un valore specifico alla parola solidarietà, ma in realtà i tre quarti delle persone che attraversano quel mondo, che se lo rivendicano, lo fanno pensando di fare del bene, e del bene come lo dice pure il Papa, e cioè che è l'unico che ha un discorso compiuto sul perché bisogna accogliere. Non c'è nessun altro in questo paese né in Europa che negli ultimi 4 anni abbia espresso un discorso chiaro e politico sul perché bisogna accogliere. C'è solo i Salvini di turno che dicono che non va fatto, ma sul perché bisogna farlo nessuno parla se non il Papa, dicendo che va fatto per carità. Ora, anche questo credo che sia un tema che non vada tralasciato, ecco, anche perché rientriamo all'interno di appunto quella che credo si possa chiamare un'economia morale della carità cristiana, e dove quindi all'interno di un mondo sociale che sta evolvendo, guerre di religione e compagnia bella, come tutto questo rientra in un'esacerbata islamofobia, guerra di religioni e puritanesimo, e quanto siamo bravi cattolici cristiani che siamo così gentili e accogliamo, lo prenderei anche quello in conto, anche solo come elemento di riflessione. Sull'esterno invece io ho trovato molto utile l'ultimo intervento del dibattito di prima. Però mi fa pensare un paio di cose, cioè credo che come siamo qui oggi e come tutte le varie, no, questioni no border negli ultimi anni ci sono a cuore, in realtà avrei un paio di domande. La prima è il sistema SPRAR, per dirne una, credo che sia nato in Italia, se non sbaglio, a fine degli anni 90 o inizio 2000. Non mi risulta che ci sia mai stata una protesta di nessun collettivo no border contro i centri SPRAR prima del 2014, 2015-2016, eppure era 20 anni che esisteva lo SPRAR. Ora, credo che come si lavora in accoglienza, come lo Stato è una riformulazione di se stesso, come allo stesso modo anche le nostre organizzazioni, il nostro modo di organizzarci politicamente lo facciamo all'interno di un contesto che è quello nel quale viviamo. Ora, dal 2014 ad oggi abbiamo assistito a un processo molto concreto di politicizzazione del fenomeno migratorio e di politicizzazione di quella che è la richiesta di asilo totalmente trasnaturata da se stessa. Ora, quando, fermo restando ormai al limite del banale critica sul sistema di accoglienza che depotenzializza, toglie l'autonomia, cioè sono cose che sono state scritte, documentate da chiunque da 20 anni, quindi non sono novità di oggi, ok? E detto ciò, nel momento in cui viviamo un momento di estrema politicizzazione del fenomeno migratorio e noi stessi iniziamo a organizzarci contro una cosa che è sempre esistita anche prima, me la farei anche questa domanda sul da fuori, del che cosa mi porta in questo momento ad organizzarmi contro quella cosa lì e non averlo fatto prima, per esempio. E cosa sarebbe cambiato? Il sistema SPRAR è sempre stato uguale, ed esiste dagli anni 2000. Però prima si poteva ragionare sulle migrazioni in un altro modo. Oggi ragionare sulle migrazioni, come ha detto Pietro, passa solo e esclusivamente verso l'attacco all'accoglienza. Mi farei due domande. L'altra cosa è invece un'altra critica, sempre sullo stesso livello, non critica, un'altra riflessione, e cioè per chi e per che cosa lottiamo e che cosa sarebbe la libertà di movimento in un mondo che continua a imprigionare, ad avere confini, eccetera, eccetera. Cioè il rischio che si corre, secondo me, alle volte è comunque quello di creare anche noi delle vittime o degli eroi nelle figure dei migranti, che invece alle volte vengono qua solo unicamente perché vogliono lavorare e quindi in realtà rafforzare un sistema economico capitalista contro il quale in realtà io mi vorrei battere e non per il quale mi vorrei battere. E quindi quanto alle volte anche nelle logiche di critica all'accoglienza, quando non mettiamo accanto alla critica all'accoglienza una critica seria allo Stato e allo Stato capitale nel quale, del capitale nel quale viviamo, non stiamo in realtà facendo il gioco dello Stato di diritto, e cioè di rafforzare il regime democratico che nel diritto di asilo vede uno dei suoi pilastri, perché non è un diritto XYZ, è una delle basi fondanti dopo la Seconda Guerra Mondiale sul quale si basa il fatto che noi vivremo in una società nella quale la gente vuole venire a stare meglio perché il resto è peggio, quindi noi siamo più evoluti, più civili, più civilizzati, di tutto più bello, perché abbiamo anche per esempio questo statuto del diritto di asilo. Ora, non mi risulta che in realtà non ci siano motivi per lottare contro il sistema nel quale viviamo, anzi mi risulta che nelle nostre vite quotidiane, conosco la quasi totalità delle persone qua dentro con cui facciamo mille altre assemblee su mille altre cose, quindi non mi sembra che uno stato di diritto nel quale viviamo sia uno stato di diritto nel quale possiamo smettere di criticare e di lottare contro questo, ma quindi non smetterei di mettere la critica e la lotta tra libertà di movimento o contro l'accoglienza all'interno di una critica allo Stato e non solo e unicamente a quella, perché sennò di nuovo si rifà il gioco, tra l'altro molto funzionale ai Salvini di turno, di fomentare la politicizzazione del fenomeno migratorio, che non fa bene a niente e a nessuno in epoca di razzismo, tra l'altro, perché ripropone le stesse dicotomie di migranti come persone diverse, mentre i migranti non dovrebbero essere persone diverse se non per il colore, ma essere umani e persone con le quali organizzarsi se ci sono gli obiettivi comuni, secondo me. Spunti di riflessione. Mi riallaccio all'ultimo intervento, non so se ho ben compreso tutto, in parte voglio riallacciarmi a questo e in parte fornire un'altra chiave di lettura rispetto all'accoglienza che mi sembra che sia mancata. Parto da questo, sempre nell'ottica, diciamo, di ragionare su che cosa può essere una strategia di lotta, in realtà contro che cosa è la domanda. Credo in parte, perché poi per esempio riscontro una differenza anche di lettura abbastanza profonda tra il tavolo della mattina e il tavolo del pomeriggio, proprio forse anche quello che dicevi tu, cioè non possiamo non criticare la legge in quanto tale, cioè nel senso, e però io non credo che oggi come ieri si parli, diciamo, si critichi l'accoglienza solo e semplicemente come accoglienza senza mettere in discussione il resto. Cioè io penso appunto alla lotta contro le leggi sull'immigrazione, che è vecchia tanto quanto sono vecchie le leggi sull'immigrazione in questo paese. Io appunto partirei da questo livello qui, perché altrimenti, diciamo, torniamo indietro, cioè mi sembra, no? Che altrimenti si produca un arretramento proprio, cioè, del livello di conflittualità, se non altro potenziale, no? Perché appunto da quando esistono le leggi sull'immigrazione esiste una lotta che dice noi non vogliamo un dispositivo che serve a creare sfruttamento, che serve a creare frammentazione, che serve ad abbassare i salari, no? E che quindi è funzionale alla riproduzione di un sistema che è quello dei confini che servono al capitale, no? Quindi in questo senso menzionavamo stamattina appunto un tentativo fatto con Campagna in Lotta, ma in realtà con tante altre realtà, proprio di portare questa dimensione conflittuale di nuovo su un piano che è nazionale, ovviamente, dove il piano nazionale non è risolutivo, perché parliamo di politiche che sono prima di tutto politiche europee, quindi ovviamente già il piano nazionale è un piano su cui si può agire una vertenzialità, una conflittualità parziale, ma che è sicuramente necessario, almeno per esempio a partire dalla lotta dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne. Diciamo, ovviamente ci si scontra contro i limiti di una lotta territoriale, no? Nel momento in cui poi cioè tu vai diciamo, abbattere alla questura o al comune o alla prefettura, diciamo, una regolarizzazione, un riconoscimento delle carte di identità, dei permessi di soggiorno, eccetera, ma ovviamente le istituzioni, i rappresentanti locali delle istituzioni ti dicono il problema è il Ministero dell'Interno, e il Ministero dell'Interno a sua volta ti dice il problema è l'Unione Europea, ma vabbè, insomma. Comunque, no? Quindi penso che bisognerebbe ripartire di là, poi è ovvio che appunto, cioè, ci sono anche delle declinazioni territoriali o comunque particolari diverse, per cui le lotte nei centri d'accoglienza singoli sono ovviamente altrettanto importanti e appunto dal nostro punto di vista però la necessità attuale è quella di metterle in connessione e di dargli una voce che attualmente non hanno una risonanza, non hanno visibilità all'interno, diciamo, del mondo militante, no? non vengono prese in considerazione come delle istanze di conflittualità di cui, diciamo, che si debbano sostenere, cioè ci manca molto secondo me la solidarietà di lotte che sono quotidiane. E l'altro elemento che secondo me è mancato completamente nel dibattito, nella discussione su che cos'è l'accoglienza, è l'elemento del lavoro gratuito, cioè del fatto che appunto la famosa legge Minniti-Orlando prevede anche diciamo una quasi coazione al lavoro volontario, o comunque, diciamo, lega la possibilità di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale al fatto di dimostrare di essere appunto un buon non cittadino, un migrante disposto a restituire quello che gli viene, cioè il dono dell'accoglienza che gli viene regalato dallo Stato italiano, no? Quindi penso che sia importante ragionare su questo piano perché poi appunto si lega a tutta una serie di altre istanze di come dire, appunto, incoraggiamento del lavoro gratuito. Pensiamo alla scuola, pensiamo all'alternanza scuola-lavoro, pensiamo all'economia degli stage, no? E di tutto quello che è il precariato contemporaneo, che è appunto attraversato da questa richiesta continua di lavoro gratuito, per non parlare ovviamente del lavoro domestico e di cura, che è una battaglia ancora molto più antica, femminista dagli anni 70, no? Quindi che anticipa poi le battaglie contro la precarietà del presente. Quindi su questo piano penso che sarebbe importante appunto mettere in connessione il circuito dell'accoglienza con tutta questa serie di altre potenziali conflittualità. C'era Giulia. Sono molto, molto in fretta. No, era solo un commento che mi era venuto in mente durante, insomma, i vari interventi precedenti, e stavo pensando che la questione che si diceva di allargare lo sguardo, di allargare la critica nel momento in cui critichiamo e vogliamo criticare l'accoglienza, e si diceva anche, non so, questa lotta sul diritto d'asilo, di chiedere che il diritto d'asilo venga riconosciuto, però allargare lo sguardo sull'accoglienza, inserirlo in un quadro, e anche partire da quell'idea che magari, cioè, è scontata, che però forse vale sempre la pena ripetere, che siamo attenti a non cadere nella trappola di usare le lenti del diritto per andare a criticare il diritto, per andare a criticare l'accoglienza. Quindi, nel senso, e questa è un po' per me la trappola che vedo nel momento in cui si dice, in cui ci focalizziamo sull'accoglienza e sul diritto d'asilo, quando per forse la battaglia potrebbe essere quella sul decreto flussi, cioè chiedere che sia possibile arrivare in Italia in un'altra maniera che non sia il diritto d'asilo. Quindi questo si accompagna a una riflessione anche sulla stessa terminologia, ad esempio, delle migrazioni forzate, quindi andare anche un po' a smontare, no, questa idea delle migrazioni forzate, andare a rismontare e rivedere che nel momento in cui si dice sono aumentati i flussi, e sono aumentati i flussi, ma sono aumentati i flussi dal mare, perché quella è l'unica maniera di arrivare in Italia. Cioè, nel senso, e non è che costa meno, perché costa di più, costerebbe meno un aereo se uno potesse prenderlo. E quindi niente, è semplicemente questo, tenere forse un punto proprio di partenza ogni volta, che forse allora non darei per scontato, è sempre dire è la legge che crea le immigrazioni, non è che le immigrazioni esistono di per sé, ma un migrante è reso migrante, un migrante è reso richiedente asilo, un migrante è reso irregolare dalla legge, dalla legislazione. Quindi allargare lo sguardo e andare, io non voglio fare una lotta per riconoscere tutto il diritto d'asilo, io voglio fare una lotta perché puoi anche avere un'altra maniera per rimanere all'interno del territorio che non sia il diritto d'asilo. E quindi, cioè, di pari passo va l'accoglienza, insomma, tutto il resto dei discorsi sono stati fatti e basta. Che eleganza! Io volevo riportare un po' la discussione sul, forse un livello micro, che però forse ci aiuta poi anche a parlare di processi più larghi. E quindi comincio presentandomi, nel senso, dove sono collocato io rispetto a tutto questo. Io per lavoro insegno italiano, e in questo momento, sebbene la collocazione fisica all'interno del quale insegno italiano sia un centro interculturale del comune, però sono, il mio datore di lavoro è una cooperativa che gestisce centri di accoglienza nelle varie sfaccettature formali in cui sono suddivisi. Mi sembra di parlare in chiesa così, però. Se lo tieni vicino abbasso, sennò. Ok, lo tengo vicino però. E tutte le persone che vengono a fare i corsi con me sono persone che sono inserite in progetti e percorsi di richiesta d'asilo. La domanda che faccio, ma in modo meno paradossale, insomma, di quanto possa sembrare, è se nel momento in cui io vivo le contraddizioni di quel contesto lavorativo, l'unica alternativa che ho è il licenziamento, no? Perché se la risposta è no, forse può essere utile cercare di applicare lo stesso grado di complessità che abbiamo utilizzato nell'analizzare i vari dispositivi di cui si è parlato nella tre giorni, e forse applicare anche quel grado di complessità anche a un'altra cosina che non credo che sia meno leggera di tutto ciò di cui abbiamo parlato, che è il lavoro. Perché a volte a me sembra come se i dispositivi di messa al lavoro vengano considerati una sorta di passeggiatina, e tutto ciò che concerne le modalità attraverso cui le persone che sono messe al lavoro nell'accoglienza operano sia un derivato esclusivo, in qualche modo, sia una sorta di ricaduta esclusivamente dalla loro vita interiore, o piuttosto della loro personalità, del loro modo di posizionarsi politicamente. Nel senso che credo che la messa al lavoro sia un dispositivo pesante tanto quanto gli altri di cui abbiamo discusso, che anche chi viene messo al lavoro, però, e questo è un altro equivoco che in qualche modo sento a volte come implicito o in alcuni discorsi che possiamo fare, l'operato poi di chi è al lavoro non è semplicemente la trasposizione di quello che è il mandato. Esiste in ogni persona che lavora un conflitto tra il mandato e poi l'esecuzione del lavoro, e questo credo che avvenga anche all'interno dell'accoglienza. E il tipo di pratiche che vengono messe poi in pratica, cioè quando andiamo a vedere come un'istituzione come l'accoglienza opera nelle pratiche che vengono attivate nell'incontro tra chi è messo al lavoro e chi è messo all'interno dell'accoglienza. Queste sono anche filtrate da tutto quello che è il lato soggettivo di chi è messo al lavoro. Terza premessa, i tipi di pratiche che vengono attivate o meno non sono soltanto qualcosa che riguarda appunto la personalità o le idee o i convincimenti di chi lavora, ma dipendono anche dal tipo di opportunità, di risorse, di contesti, di reti che chi è messo al lavoro ha rispetto all'attivazione di pratiche alternative. E questo lo dico in modo molto riportandolo sulla quotidianità, ad esempio del mio lavoro. Io so perfettamente che nel momento tutte le attività, tutti i tentativi possibili che ho all'interno del lavoro di sottrazione, trasformazione, contestazione, avvengono in una micropolitica di lavoro sulle pratiche di lavoro. E questo per un'assenza incredibile di qualsiasi rete di solidarietà, di forza e di difesa esterna. Cose che, se poi raccontate all'esterno, appunto per la loro opacità, sono anche estremamente poco comprensibili, nel senso che chi lavora con me potrebbe raccontare di che lunga negoziazione è stato il fatto di fare i corsi, di rifiutare di fare i corsi all'interno dei centri di accoglienza, pretendere che il corso non fosse stato obbligatorio o piuttosto che ci fosse una compresenza culturale intorno alle lezioni. Questa roba qui sembra una cosa veramente minima, ed è tutto sommato una cosa minima, però sono degli ambiti dell'intervento che nel vuoto e nella solitudine anche di chi è messo al lavoro sono quelli su cui si riesce a lavorare. La seconda cosa, cercherò di essere breve, giuro, ma fatemi dei segni se vado troppo lungo. Io vorrei parlare dell'accoglienza a Bologna in qualche modo territorializzandola, nel senso, è stato detto già un paio di volte durante la giornata di alcune specificità che possono essere viste sui modi in cui sul territorio di Bologna sono stati reclutate le persone che sono messe al lavoro nell'accoglienza, tenendo conto che questo è stato un fenomeno che pur nella sua piccolezza è stato, cioè se ne guardiamo la dimensione, è una roba esorbitante, parliamo di più di 300 persone messe al lavoro in meno di 2 anni, è una roba enorme, probabilmente all'interno di tutto il mondo del lavoro sociale in città è diventato il primo comparto fino a 3 anni fa era probabilmente l'educativo scolastico, adesso è diventato tranquillamente l'accoglienza. Ed è un fenomeno veramente grande, e quando ci diciamo, come hanno detto più persone, che è possibile quasi fare un profilo tipo delle persone che sono state reclutate nell'accoglienza, ossia un profilo di persone estremamente scolarizzate, messe sul lavoro e tra l'altro sottoretribuito e sottocategorizzato rispetto al titolo di studio, che avevano spesso un background di circolazione all'interno di movimenti politici associativi, che esplicitamente fanno discorsi di antirazzismo. Ora, io non mi interessa tanto dare un giudizio valoriale rispetto a questa cosa, a me interessa capire come funziona questa roba e perché funziona in questo modo. Cioè, nelle dinamiche di messa al lavoro, che valore ha questo tipo di profilo e se ci dice qualcosa rispetto alle modalità di accettazione o meno del lavoro. Io rispetto a queste cose non ho una risposta. Quello che sento fortemente è la mancanza di contesti all'interno del quale ci si pone queste domande. Io credo che, ad esempio, un'assemblea auto-organizzata di lavoratori dell'accoglienza è anche uno strumento per fare questa cosa, e mi trovo un po' in difficoltà rispetto alla domanda ma voi che fate di fronte alle mobilitazioni, non perché non sia una domanda pertinente, ma perché Allora ci chiedo anche collettivamente che facciamo nei confronti dei livelli di sfruttamento delle cooperative sociali. Che facciamo collettivamente rispetto alle condizioni. Tutte le ultime due frasi. Le ultime due frasi è. Che mi sembrano importanti, ma non l'ho capito. Che credo che, come alla stessa legittimità, che ovviamente la domanda a cosa fate come lavoratori rispetto a questa parola sto pensando proteste. Proteste all'interno dei circuiti dell'accoglienza. Credo sia altrettanto legittima la domanda a cosa facciamo come militanti politici rispetto alle condizioni di sfruttamento dentro le cooperative sociali. E questo perché sono due dispositivi che si reggono a vicenda. Quando, giuro che dico l'ultimissima cosa, in due frasi, quando si parla di entrata dell'educativo all'interno dell'accoglienza, significa anche all'entrata di dispositivi che provengono dal mondo dell'educazione e della pedagogia. Questo aprirebbe un'altra discussione, che è quella della creazione di soggetti vulnerabili per legge, perché evidentemente le persone che migrano in sé non hanno nessun profilo di necessità di intervento educativo. Però il modo in cui le cooperative, soprattutto a Bologna, cercano di strutturare l'intervento è sull'intervento educativo. Ma questo vuol dire anche che il centro della questione dell'accoglienza sta nella relazione tra chi è accolto con tutta la... cioè, uso questa locuzione per semplificazione, perché dire che è accolto insomma, è un po' disgustoso, e chi lavora. Ora, se il centro di questa cosa e questo tipo di relazione, secondo me, stare soltanto su una polarità e non vedere contemporaneamente i meccanismi che costruiscono soggettivamente anche l'altra, non consente neanche di vedere i possibili scarti e le possibili uscite rispetto a quello che è previsto dai mandati, che non esauriscono sicuramente quello che avviene praticamente all'interno del mondo della politica. Salti, se no c'è Wolf. Io, ma ovviamente molto dall'esterno. Io forse ho una voce più occulta, quindi le voci maschili sono terribili in questa palestra. No, molto dall'esterno, solo una notazione sicuramente banale sull'invito a non farsi irretire dal meccanismo della colpevolizzazione, no? Perché trasponiamolo su un settore estremamente più semplice da capire, che può essere quello della ristorazione, e ci sono state a volte delle discussioni su quale fosse il profilo dei lavoratori in un, per esempio, presso un ristoratore o un distributore praticamente odioso. E come dire, io credo che la scelta giusta sia sempre stata quella di riconoscerli come lavoratori, quindi persone che hanno bisogno di un reddito, le cui lotte dovevano incontrare le nostre e che non possono essere considerati in alcun modo complici. Quindi questo da un lato lo terrei sempre presente, e dall'altro, sull'altro polo di riflessione, c'è il fatto che il capitalismo funziona anche se non ci crediamo, nel senso che non richiede un'adesione ideologica, ma semplicemente si struttura in modo che ciò che noi agiamo viene messo a profitto. Quindi tra questi due poli bisogna poi trovare il modo di intervento, che non può mai essere una soluzione ovviamente individuale. Banalizzando, non basta fare l'operatore con coscienza, quindi non crederci, non credere a tutta quella dimensione paternalistica e disciplinante dell'accoglienza, e dall'altro però, come dire, non dimentichiamo appunto il profilo di interlocutore importante di lavoratori. In fondo, se ci pensiamo, sì, è vero, spesso sono compagni che fanno quel compagni e compagne che fanno quel lavoro, però anche se andiamo a vedere nelle cucine di tanti posti sono compagni e compagni, quindi analizziamo anche socialmente, diciamoci sì, c'è stata una disponibilità di persone con una certa sensibilità, però è anche semplicemente un settore che si è aperto. Accoglienza e ristorazione sono i due settori che si sono aperti, vediamolo nella banale ricerca di reddito delle persone. Su questo chiuso, altrettanto veloce, abbiamo forse abbandonato, non è vero che diceva Irene che non si è parlato del lavoro gratuito, invece secondo me c'è una notazione di Rigo che è stata particolarmente interessante questa mattina, che è quella... Ah, scusa, sì, sì. Ah, no, dicevo Enrica Rigo, che ha detto una cosa molto importante in realtà, che è quella dell'introduzione del servaggio, quindi del io, tu mi lavori gratuitamente perché io ti ho salvato la vita. Interessante, forse un passo indietro, no? Sempre in una dialettica tra diritto di morte e diritto di vita, e diritto sulla vita, e vediamolo, sicuramente molto affascinante questa idea del servaggio. Io lo vedrei, però lo amplierei tranquillamente e direi il lavoro gratuito sta diventando una forma di accesso alla piena cittadinanza anche per il, diciamo, italiano con cittadinanza autoctona e tutto quanto da 10 generazioni. Quindi fatta salva la differenza della situazione, come dire, più o meno precaria e più o meno drammatica, rimane che il lavoro gratuito sta diventando complessivamente un passaggio disciplinante molto forte. Non ti diplomi se non hai fatto scuola lavoro, non ti laurei se non hai fatto il tirocinio, e il campo di applicazione è potenzialmente infinito, e quando si arriverà a una forma redistributiva, a cui necessariamente si dovrà arrivare nel corso di non so se anni o decenni, è chiaro che sarà una forma redistributiva che sarà legato a questo elemento disciplinante. Secondo me, dopo Expo, che abbiamo provato a dirlo, ripeterlo, abbiamo un po' mollato sul lavoro gratuito, invece può essere un elemento in cui si ritrova un'unità tra situazioni diverse, nell'ottica appunto di contrastare un modello disciplinante che mette la tua vita, la tua piena cittadinanza al servizio veramente del capitale in un modo abbastanza inedito. Non so, visto l'ora tarda, provo, spero di non andare lungo in caso, provo a riprendere alcuni punti un po' detti nella giornata e vediamo se è possibile in qualche modo un rilancio. Non so. La prima cosa, in realtà, sembra molto, è molto chiaro a tutti, cioè la legge è un giochetto, ti serve a un certo punto, quando ti gioca contro ti serve, la usi, ci sono degli avvocati preparati che per fortuna riescono a usarla e con dei tempi che ci si spera siano brevi, magari ogni tanto è un giochetto che ti torna a favore e quindi ti consente di rispondere. A volte, mi sembra molto chiaro, anche se la legge ti gioca a favore, non funziona. Per cui abbiamo per esempio, non so, due partiti dichiaratamente fascisti nonostante la Costituzione, quindi bisogna reagire e si scocciano i fascisti per come forma di lotta, giusto per ricordare che siamo nati dalla resistenza. Nonostante le leggi buone, ce ne sono altre che fanno veramente schifo, che esistono e giustamente non possono essere combattute esclusivamente con gli strumenti della legge, appunto. In alcuni casi si usa lo scotch, in altri casi si usa forme dichiaratamente illegali per sconfiggere e produrre delle fratture. Questo, diciamocelo, la legge non basta, evidentemente, e anzi in alcuni casi ci massacra. Seconda cosa, sono d'accordo ovviamente con quanto diceva Volto, non cadiamo nell'errore di individualizzare le responsabilità, non per sollevare ciascuno di noi dalle proprie responsabilità, che evidentemente ci sono, ciascuno di noi vive in posizioni contraddittorie. È che questo è esattamente uno dei giochini che fa il capitale, farti pensare che tu sei capace di spostare da solo, come individuo, qualcosa all'interno di questo mondo. Mi spiace, non è possibile, non è assolutamente possibile, perché ci sono dei meccanismi di ricatto, quindi chi lavora cucine, accoglienza, chiaramente tra cucina e accoglienza ci sono delle distanze clamorose, però vivere su di sé la responsabilità o attribuire al singolo la responsabilità individuale di sistemi macroscopici si sbaglia nel capire l'ottica, nell'usare la lente da cui guardare il mondo. Come quindi si esce? Come si cerca di produrre qualcosa in avanti? Beh, prima di tutto uscendo dalla solitudine, dall'essere perfettamente individualizzati. Per quanto questa assemblea sia estremamente difficile, ce la siamo immaginata difficile, tutto sommato non sta andando così malaccio, però forse è anche il caso di dirsi che una composizione così strana, io non me la ricordo in un'assemblea, una composizione così strana che vuole, nonostante le differenze, le distanze, i confini, vuole parlare insieme perché si crede che nonostante ruoli diversi effettivamente qualcosa si possa fare. Lo dico anche molto chiaramente, per quanto gli operatori abbiano dichiarato che si incontrano fra di loro e mettono in discussione e fanno risaltare le contraddizioni del loro lavoro, che evidentemente, ma lo diciamo dal primo giorno, coniuga l'assistenza al controllo, e questo lo diciamo dal primo giorno, questo non basta, nel senso che sì, abbiamo una categoria che verosimilmente rifletterà sulle proprie contraddizioni, magari troverà anche delle pratiche per smuoverne alcune, e tuttavia, perlomeno io sono molto molto convinto che se vogliamo introdurre dei cambiamenti radicali, quello che abbiamo quest'unica parola, accoglienza, ma in generale nel modo con cui vengono gestite le migrazioni in Italia, questa cosa non basta. Cioè serve far saltare quei confini tra persone che sono imposti dall'alto. Il confine, il ruolo fisso, rigido dell'operatore nei confronti del migrante, del coordinatore nei confronti dell'operatore che poi deve entrare in conflitto col migrante laddove il coordinatore lo impone, questi sono ruoli stabiliti dall'alto ed è secondo me intenzione, possibilità far saltare queste contrapposizioni. Non dico sia facile, non dico che si possa fare domani, ma dico che stranamente in questo strano incontro si possono creare delle possibilità per far saltare il più possibile queste contrapposizioni, come partendo da una critica globale. Questo mi sembra molto chiaro. È vero che se noi ci fissiamo la nostra lente esclusivamente sull'accoglienza, se noi quando parliamo di immigrazioni automaticamente parliamo dell'accoglienza, abbiamo già ridotto tutto lo sguardo, abbiamo ridotto a un unico particolare invece lo sguardo che va ampliato, come giustamente si diceva nei documenti preparatori di questa assemblea. Per esempio, la decorosa selezione parte dal Niger ormai, parte su un livello sovracontinentale. A questo punto quello che il problema che secondo me va posto è quello in cui tanti frammenti diversi, evidentemente toccati da un sistema di sfruttamento, di violenza, secondo chiaramente linee diverse, perché il genere, la razza, il fatto di essere nati nel posto sbagliato nel mondo, evidentemente ti sottopone a violenze maggiori, sfruttamento maggiore e di diverso tipo. Però mi chiedo se sia possibile una ricomposizione. Da questo punto di vista, lo dicevo oggi, in realtà, ripeto, ero molto d'accordo con Irene quando dice la solidarietà in realtà ha una lunga storia nei percorsi di lotta, però forse utilizzare la parola ricomposizione ci aiuta a fare uno scarto doppio, nel senso che la cosa che va ricordata è che oggi nel tavolo della mattina non ho capito se è emersa o meno il termine forte, ma non è che tutto quello che accade ai migranti sta in un angolino rispetto alla nostra società. No, è assolutamente in sinergia. Prima di tutto perché è un campo di sperimentazione. I e le migranti sono oggetti di sperimentazione in termini di sfruttamento, di controllo, di violenza, e questo è chiarissimo. Ma poi, nel modo in cui si gestisce la migrazione, avvengono dei cambiamenti che influiscono in maniera decisiva su tutta la società. L'esempio del lavoro volontario, coatto ma definito volontario, dei richiedenti asilo è lampante, perché d'ora in poi chi nelle cucine, chi in altri posti di lavoro si ritroverà con il proprio contratto magari sfigatissimo, ma a dover competere con un richiedente asilo che offre, costretto a dare 20 ore alla settimana a titolo gratuito, perché in questo modo lui magari può avere una speranza. Nel frattempo il tuo datore di lavoro non investe nei lavoratori quelle 20 ore che vengono offerte, e quindi tu con un contratto magari precario, piccolissimo, finisci, sei messo a repentaglio. Allora a questo punto mi domando chi è il nemico. Se il nemico è il richiedente asilo che accetta il contratto gratuito, che poi non è manco un contratto, oppure se il datore di lavoro, oppure o anche un sistema più elevato che gioca a livelli molto più alti. Da questo punto di vista, secondo me, io ho un po' l'impressione che prima di tutto, lo ripeto, un'occasione così c'è stata poche volte, io non ne ricordo, perlomeno non impostata in questo modo, e quindi mi chiedo se non sia possibile immaginare, magari non va definito qui, magari va rimandato solo il punto, immaginare un momento successivo, non domani, non dopodomani, fra 3 mesi, non lo so, in cui soggetti diversi che guardano il mondo attraverso l'ottica delle migrazioni dicono e riflettono su cose abbastanza puntuali. Provo a segnarne alcune che poi sono uscite oggi. Il primo, no alla selezione. Questa cosa che veniva chiamata la decorosa selezione, l'hanno sottoposta a critica tutti oggi, la divisione tra migrante politico e migrante economico, l'hanno saltata, l'hanno criticata tutti, operatori, solidali, evidentemente anche nell'intervento di Mohamed ritornava questa cosa, e quindi questo potrebbe essere un primo punto. Un secondo punto, no al paradigma umanitario, no a questa vittimizzazione, questo costante andare come dei gesuiti poi del Seicento, perché il modello rimane quello, a sostenere il poveretto che va aiutato in quanto poveretto, la poveretta, vanno aiutati solo in quanto sfigati di questo mondo e non in quanto invece agenti positivi, affermativi e ogni tanto pure rompicoglioni, cosa che per me rimane assolutamente positiva. Terzo punto, no alla relocation. Come diciamo no ai confini che vengono stabiliti tra nazioni e tra persone, pure la relocation è un modo per imporre le persone dove devono stare. Tra l'altro le persone tendenzialmente non rimangono dove gli dici di stare, quindi è un gioco assolutamente ipocrita. Quarto punto, iperimportante, no allo sfruttamento. E qui è perfettamente vero che il lavoro gratuito diventa il modo, uno dei modi con cui si accede alla società. È vero, non hai il diploma, non hai la laurea, probabilmente in alcuni casi non hai il permesso di soggiorno, sicuramente non hai lo status di rifugiato, non hai alcuna forma di protezione se non hai dimostrato di integrarti, ossia se non hai lavorato gratuitamente. Mi chiedo se un incontro di qui a 3 mesi su questi temi possa essere dato, anche perché il tema della sostituzione è vero che non va visto, secondo me, da un punto di vista individualizzato, ma dobbiamo dare delle pratiche, cioè va ragionato su che cavolo vuol dire essere solidali, essere dalla parte dei migranti, produrre una critica affermativa rispetto a come vengono gestite le migrazioni. Come si fa? Non si decide da soli, evidentemente, forse non si decide neanche in assemblee ristrette, si decide o si pensa, si elabora in contesti dove soggetti che vengono messi contro uno contro l'altro decidono che questa contrapposizione è idiota, è funzionale a un modo di governare la nostra società, e allora si inizia a elaborare insieme, secondo me, ma perché è un sistema che distrugge tutti quanti, con le dovute differenze, ma distrugge tutti quanti, e allora forse a partire da questo possiamo immaginare delle pratiche comuni, condivise e riconoscibili, e che possano anche rivendicare qualcosa, perché insomma al contrattacco in maniera collettiva bisogna anche passare. Vai, vai, però. Io volevo semplicemente tornare un attimo, non al micro, ma proprio al terra terra, come si dice, nel senso che, cioè, io capisco il discorso che hanno fatto in alcuni sul fatto, sulla difficoltà e poca utilità delle polarizzazioni sulla ricomposizione. Dopodiché però mi chiedo anche, dopo appunto tanto tempo che anche io insieme ad altri ed altri ci rompiamo anche la testa su questo argomento, mi chiedo che nel momento, in un futuro ipotetico che in realtà a quanto capisco non è neanche così ipotetico e neanche così lontano, in cui la cooperativa, l'operatore della cooperativa ha l'obbligo di allontanare dalla struttura una persona che ha preso qualsiasi tipo di denuncia, quindi immagino una persona che viene denunciata perché partecipa a una protesta di piazza. A quel punto, nel senso, possiamo ricomporre tutto quello che ci pare, però questa cosa avviene, quindi io purtroppo inizio a vedere con difficoltà, a immaginare con difficoltà un momento di lotta condivisa in cui ci siano accanto la persona che è stata cacciata via dalla struttura e quello che l'ha cacciata. Cioè, purtroppo mi piace ragionare così in basso, però penso che sia anche il momento di farlo, anche perché appunto grazie al decreto Minniti si sta andando sempre di più in questa direzione, quindi di, come si diceva appunto anche la prima serata, di far sì che i poteri, che, cioè, diciamo, le funzioni di controllo e repressione ce l'abbiano sempre di più di soggetti che non sono più solamente gli sbirri, anzi sono sempre di più dati, anzi sono sempre più obbligati persone come gli operatori a espletare queste stesse funzioni. Quindi diciamo che la domanda che faceva Simone, per quanto possa sembrare provocatoria, però secondo me purtroppo il punto lo c'entra, perché questa cosa ci dobbiamo interrogare. Comunque, al di là di questo, capisco anche che non sia sicuramente utile continuare a soffermarci su questo punto e continuare a chiederci, ma quindi tu che farai in quel momento? Perché probabilmente non è questo il punto. Il punto è quello che appunto avrei sperato da questa assemblea, ma che evidentemente non siamo ancora pronti a fare, è cercare di veramente andare a capire quali sono queste benedette pratiche. Perché io credo che ci possiamo anche immaginare degli altri incontri o dei cortei in piazza in cui tutti insieme diciamo no ai punti che rincava Paul. Però nel senso, per me è importante innanzitutto, cioè, premetto che per me la contestazione del sistema d'accoglienza in quanto sistema di repressione e di controllo, in quanto tutto quello che abbiamo detto la mattina, è un sistema che è volto proprio all'eliminazione dell'autonomia delle persone, cioè è, nel senso non ci, è indiscutibile. Cioè, secondo me quella cosa va fatta ed è implicito che andando a fare quella protesta anche contro lo Stato, con chi è responsabile di aver creato questo tipo di politica. Quindi per me quella cosa va fatta. Cerchiamo di capire in che modo farla, dopodiché delle idee ci sono già, non penso di inventarci niente, nel senso che così come per me era importante essere nel ghetto a Rosarno, a Ventimiglia dove c'erano i compagni nel presidio, allo stesso modo è importante essere laddove ci sono proteste che ormai sono veramente, non dico quotidiane, ma quasi, all'interno di CIE, sicuramente questo tanti anni, ma sappiamo adesso anche all'interno di CARA, all'interno di Hotspot, all'interno di CAS e tutta una serie di altre mini strutture. Quindi per me, per protestare contro quel sistema, che io ritengo una cosa fondamentale, uno dei momenti in cui piacerebbe incontrare tutti quanti le persone di questa assemblea sarebbe in una di quelle situazioni lì, quindi essere solidali con chi in quel momento sta facendo una protesta. E questa cosa è fondamentale perché penso per esempio all'ultimo mese in cui ci sono state un sacco di proteste, soprattutto per esempio a Lampedusa o anche in Puglia, di cui in realtà è uscito pochissimo, anche sui nostri canali, non se ne sa niente, quindi quello, poi magari lo so perché ho i compagni a Lampedusa per cui ovviamente le informazioni viaggiano con canali preferenziali. Dopodiché il fatto che ci siano persone in Oxford con Lampedusa che sono trattenute lì da 4 mesi, che protestano praticamente un giorno sì e un giorno no, facendosi la bocca, facendo le proteste in piazza, che si rifiutano di entrare in quell'hotspot, quindi dormono piuttosto in mezzo alla strada, quindi provocando una serie di conflitti con la cittadinanza. Il fatto che queste cose avvengano e noi non ne siamo assolutamente informati non riusciamo in alcun modo a mobilitarci, secondo me è problematico. Quindi se vogliamo parlare di pratiche, e secondo me adesso è l'unica cosa che possiamo fare, perché non possiamo continuare a romperci la testa su se è meglio licenziarsi o continuare a fare l'operatore. Se vogliamo parlare di pratiche, partiamo dalle cose che già esistono, ovvero persone in tutta Italia, e non solo, che tutti i giorni protestano all'interno dei loro sistemi di accoglienza, il più delle volte per abbattere quel sistema di accoglienza, perché è un sistema di oppressione, eccetera, eccetera. Quindi per me è fondamentale partire da là. Poi un'altra piccola cosa, rispetto a quello che diceva lui prima del profilo dell'operatore d'accoglienza, questo qua è un discorso interessante, perché ci interrogavamo con altri compagni e compagne sul fatto che, visto che l'accoglienza sta cambiando, come abbiamo detto anche un po' oggi, magari non abbiamo approfondito abbastanza il discorso, però visto che a quanto pare si sta sempre più, il confine sta sempre più spingendo verso sud, gli investimenti vengono fatti verso sud, si punta molto di più sulle deportazioni e sempre meno sui tassi che praticamente non esistono più, quindi la bolla dell'accoglienza è praticamente scoppiata e adesso ci sono solo sprar e deportazioni. I soldi vengono dati a tutte le ONG e associazioni che operano in Tunisia principalmente e in Libia, proprio per dei progetti sperimentali che hanno a che fare con i cosiddetti rimpatri volontari, eccetera, eccetera, quindi sta tutto spostando in quella direzione. Quello che immaginavamo, ma che in realtà è già così, che un altro mercato, anche per prendere quello che diceva Wolf, che si sta aprendo e si aprirà, sarà quello, cioè un mercato proprio di lavoro, nel senso, cioè un precario che deve avere lavoro, che fino adesso lo trovava nei CAS, ora è molto più difficile perché non c'è più una lira, adesso sarà molto più facile trovarlo all'interno di quelle ONG, tipo su Bologna penso al CEPA, al CIR e ad altre ONG che sono sul territorio bolognese, che hanno vinto un sacco di soldi per gestire i centri per migranti in Libia. E immagino che il profilo delle persone che saranno assunte sarà lo stesso, da pensare. Quindi, insomma, nel senso, questa riflessione qua è interessante, però nel momento in cui bisognerà andare in Tunisia, cosa che succede? Bisognerà andare in Tunisia a fare i rimpatri assistiti o in Libia a gestire le prigioni per i migranti. Torneremo a discutere del fatto, cioè, di tutte queste problematiche teoriche che stiamo guardando oggi o no? Non lo so. Cioè, insomma, secondo me è vero che dobbiamo andare oltre, diciamo, la polarizzazione di operatore sì, operatore no, ma anche semplicemente per il fatto che le cose stanno cambiando, quindi l'operatore, come era fino adesso, che lavora nel CAS non ci sarà più, perché non ci sono più soldi, e sarà qualcos'altro. Qualcos'altro ovviamente di molto più problematico e molto più facilmente individuabile come sbagliato, mettiamola sempre terra a terra. Quindi, non lo so, scusate, però, insomma, secondo me è essenziale che ci rivediamo, forse sì, ma per iniziare veramente a capire dove dobbiamo incontrarci, per fare cosa e in che modo farlo. Vabbè, allora dico due robine, io ci provo. No, appunto, sì, forse abbiamo fatto qualche passo, si è provato a fare un po' troppi passi in avanti adesso e siamo tornati un po' indietro. Diciamo che la questione un po' oggi, almeno la partita minima di questo incontro, di questa assemblea, è quella di, diciamo, almeno testare una disponibilità, ecco, su vari fronti a trovare legami, connessioni, perché alla domanda molto, molto semplice su come si comporta un operatore rispetto a una protesta in un centro d'accoglienza, in realtà la risposta più semplice che a me viene da dare, visto che anch'io lavoro in accoglienza, è che io in quel momento, prima ancora di sapere cosa fare, la cosa di cui sicuramente mi rendo conto è che sono solo in quel momento, anche se sono con dei colleghi. E quindi secondo me la questione che va accolta e che forse in maniera ancora parziale, con tutti i limiti del caso, e che in qualche modo si sta venendo fuori una soggettività o una emersione, si cerca disperatamente di avere una presa di parola in quanto operatrice, operatore dell'accoglienza, però è una cosa molto, molto difficile, anche perché, diciamo, sì, ok, ci sono tante compagne e tanti compagni, questo è vero, ogni tanto ci si incrocia, dopodiché ci sono pure una marea di teste di cazzo o comunque di persone con cui faccio molta difficoltà a condividere non solo come si lavora, ma anche come si vive tutto il resto della giornata. E quindi riparto, in quel momento io mi sento solo, è quello che manca, e in quel momento io sono anche sotto ricatto rispetto a cosa faccio, cosa dico, cosa non faccio e cosa non dico. E quindi secondo me la partita che può senso aver giocare è proprio quella di avere dei ponti con l'esterno. Si diceva anche prima, ma lo diceva anche Rosa adesso, succedono tante cose nei centri d'accoglienza o comunque nelle varie strutture che banalmente non vengono fuori, questo proprio perché ci sono poche connessioni tra un dentro e un fuori, e se ci sono ancora compagni e compagni che lavorano in questi contesti, penso che possano essere delle risorse utili, e che però al momento fanno fottutamente fatica a mettersi in connessione. Banalmente l'assemblea degli operatori di Bologna, cioè, sono quattro gatti, nonostante le decine di compagni e compagni che ci lavorano, e poi tutto il resto del mondo. E quindi questa secondo me è almeno una parte minima del lavoro politico. Poi chiaramente anche in questa occasione siamo stati, c'è il forte limite che evidentemente, a parte la testimonianza dei due ragazzi di Modena, mi sembra abbastanza evidente che, diciamo, la parte manca un soggetto in questa giornata, quindi anche questo ce lo dobbiamo dire, sicuramente è un po' un parziale fallimento, e dopodiché anche su questo ci si può lavorare, e sarebbe sensato farlo. Sì, mi fermo qua, c'era Davide che è andato in bagno. No, in realtà volevo evitare di parlare dopo di Rosa, perché insomma, era un po' mi fatto riflettere, quindi stavo un attimo ragionando su cosa dire. E, no, avevo preso il microfono inizialmente la parola per aggiungere un quinto punto a quelli proposti da Paolo, perché durante tutta la giornata c'è stato un po' questo, almeno a mio avviso, ma spero io non essere l'unico, ad aver percepito questo elefante nella stanza, no? Di cui io ho percepito la presenza, e che si concretizza in una quasi necessità da parte di chi opera o orbita intorno al mondo dell'accoglienza di più vicino, da parte di chi opera o orbita intorno al mondo dell'accoglienza, di avere un punto di riferimento. E quindi la tua proposta di un incontro che si concretizzi in un tavolo, che vanno molto di moda, in un cantiere, in qualcosa che cerchi di ridefinire, e le posizioni e le strategie e anche la professionalità e la deontologia di chi lavora e orbita intorno al mondo dell'accoglienza, è un'esigenza che almeno personalmente sento molto, molto pressante. Quello che ha detto Rosa mi ha messo un po' in crisi, perché c'è una parte di me che vive questo contrasto interno rispetto al sistema dell'accoglienza in generale, pur essendone partecipe. Diciamo che il punto che volevo aggiungere era che vorrei che non venisse lasciato, almeno all'interno del contesto bolognese, alle cooperative che hanno in gestione i servizi di accoglienza, l'esclusiva sul disegnare e decidere che cosa è accoglienza e cosa no, e quali sono le modalità di questa accoglienza, e implementare le direttive illegittime, più o meno illegittime, che arrivano dalle prefetture senza critica. Io credo che un valore importante sia quello del raccogliere attraverso questi momenti, e spero, i momenti futuri che ci saranno, tutti i punti di vista per creare degli strumenti che siano di lotta e di resistenza dentro e fuori al sistema dell'accoglienza, con la finalità di migliorarlo, di evitare che siano sempre delle pratiche imposte da altri per questioni di logica e di profitto. Tutto qua. Sì, io volevo riprendere un po' anche dall'ultima tua suggestione, sicuramente significativa, che rivela la nostra incapacità di coinvolgere le soggettività migranti, la duplice soggettività di cui si parlava prima, no? La creazione della categoria migrante, che preferisco sempre chiamare Shebeb, ragazzi in arabo, proprio per evitare di rientrare in questo giochetto per cui prima di essere una persona sei un migrante, e quella dei lavoratori dell'accoglienza e non solo. Ci sono sicuramente molti punti di contatto, prima abbiamo citato il lavoro gratuito, la precarizzazione, l'accesso alla cittadinanza, uno soltanto, in quanto gli Shebeb, i migranti appunto, sono i corpi su cui si sperimentano pratiche coercitive a cui siamo sottoposti tutti, e penso che a partire da questi presupposti dovremmo, per quanto riguarda le pratiche appunto, cercare dei momenti di condivisione in cui costruire effettivamente delle rivendicazioni che possono essere comuni. Io non voglio parlare per nessuno, non voglio rivendicare per nessuno, io voglio lottare con qualcuno, e questo qualcuno sono gli Shebeb, sono le persone che ogni giorno vivono sulla propria pelle, i propri corpi, la coercizione dello Stato. Penso che il ruolo dell'operatore sia un possibile ponte nel momento in cui i ragazzi, la maggior parte dei richiedenti asilo, non la totalità, ma la maggior parte sta nei centri, e possono essere quindi un legame, un veicolo per intercettare queste soggettività che sono assolutamente necessarie dal mio punto di vista per costruire una lotta effettivamente comune. Solo questo. Se non ci sono altri interventi, quasi 2 ore di discussione. No, va bene, ok, allora chiudiamola qui. Per adesso almeno, dai, direi che un po' di sicuro un po' di cose su cui continuare a lavorare siano emerse e credo anche un po' la volontà di farlo e niente, grazie a tutte e tutti per aver partecipato a queste tre giornate e ci risentiremo presto.